i grandi del pensiero liberale, a partire da Adam Smith fino a John Stuart Mill e direi fino a Keynes, che era un liberale Keynes, non dimentichiamolo, avevano scritto nei loro testi che il mercato non può rompere il cordone ombelicale con la democrazia. Cioè, un'economia di mercato può nascere e sbocciare anche in un contesto non democratico, ma solo nel breve termine, nel breve periodo, che può essere 10 anni, 15 anni, 20 anni, questo dipende dalle circostanze. Ma alla lunga, nella prospettiva della durata, l'economia di mercato non può continuare a svilupparsi al di fuori di un contesto democratico, cioè di un contesto dove la libertà viene non soltanto viene annunciata, ma viene declinata. Eppure, negli ultimi decenni, una corrente di pensiero economico che ha il suo roccaforte proprio a Chicago, pensiero neoliberista o liberal-liberista, ha fatto credere esattamente il contrario, che il mercato non ha bisogno di fare i conti con la democrazia, perché il mercato, abbiamo detto prima, deve essere efficiente, vero? Ma la democrazia non è efficiente, perché in democrazia, per prendere una decisione, e noi italiani questo siamo molto bravi, occorrono tempi lunghi, bisogna discutere, rivedere, eccetera. Quindi gli operatori di mercato non hanno tempo da perdere. E allora, implicazione, sono gli stessi mercanti nel senso di chi opera nel mercato, che devono darsi le regole del proprio funzionamento. È facile rispettarle, come si dice banalmente dalle mie parti, se la suonano e se la cantano, o meglio, se la cantano e se la ballano. Cioè dire, le regole del mercato le deve fissare il mercato stesso. Da qui la cosiddetta autoreferenzialità, che pure oggi è termine sulla bocca di tutti. Il mercato è autoreferenziale perché si dice coloro che vi offrono banchieri, grandi industriali, grandi di qua, grandi di là, si mettono d'accordo in un qualche hotel di New York o di un'altra grande città, si mettono attorno a un tavolo, fissano le regole del gioco e queste le di fatto impongono a tutti. Quindi le regole del mercato non discendono da un processo deliberativo di tipo democratico di un tipo dell'altro. E tutto questo perché, appunto, la democrazia ha dei costi, ed è chiaro che ha dei costi. Ora, questa separazione è quella che ci aiuta a capire perché questa crisi è scoppiata nella forma che è scoppiata. Andate a vedere voi, andate a fare ricerche e chiedervi chi ha fissato le regole di Basilea 2, questo riguarda il mondo delle banche. Andate a chiedervi chi ha definito regole che hanno finito col avvantaggiare le banche di tipo speculativo e le grandi banche, e hanno svantaggiato le piccole banche, tra cui per stare al caso italiano le BCC, le banche di credito cooperativo. Perché uno dice, vabbè, ma quelle sono regole. Ah, dico, bravo, ma le regole non sono mai neutrali, perché le regole sono opera di uomini e quindi per definizione non sono eticamente o assiologicamente neutrali. Dipendono le regole da una certa visione del mondo che tu poi cristallizzi in regole. Passate all'idea neopositivistica secondo cui le regole sarebbero oggettive. Proprio solo persone che non hanno cultura possono credere a storie di questo tipo. Così è avvenuto. La stessa cosa, andate a vedere come gli statuti sono stati riscritti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale o della World Trade Organization, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e via con tanti altri esempi. Queste sono quelle che hanno finito con l'avvantaggiare certi gruppi o certi paesi, in caso l'Africa merita un'altra attenzione, non l'ho tratto per ovvie ragioni, e così via. Quindi ecco, vedete, aver separato il mercato dalla democrazia ha reso il mercato autoreferenziale. E allora voi provate a parlare del rapporto economia-etica che il mercato regola etica. Vi ridono dietro, dice, ma qual è etica? Cosa c'entra l'etica col mercato? Il mercato deve produrre ricchezza, l'abbiamo detto prima, no? Il mercato deve essere efficiente, cosa c'entra l'efficienza con l'etica? L'etica la invochiamo dopo, pagare le tasse, redistribuire il reddito, ma non nel momento in cui si produce il reddito. La produzione del reddito basta a se stessa. Ebbene, questa terza separazione è oggi, con la crisi in atto, è entrata definitiva. Anche le menti che più avevano fatto resistenza, cito uno cronista come Robert Barrow di Harvard, Lucas di Chicago, eccetera, hanno ammesso, come ha ammesso Greenspan nella sua audizione, lui venne audito il 23 ottobre 2008 dalla speciale commissione del Congresso americano. Greenspan, quello che è stato presidente della Fed, della Banca Centrale Americana, per 16 anni, quindi è quello massimamente responsabile di questa crisi. E audito dalla commissione, quando il presidente della commissione ha detto: perché hai fatto tutti questi errori? Perché hai condotto la politica americana, finanziaria americana, di regolamentazione del sistema bancario in questa maniera, eccetera? E devo dire, lui con grande onestà intellettuale, io poi gli ho riferite in uno scritto che ho pubblicato, ci sono tutti i riferimenti se uno vuole approfondire, dice: perché io sono stato accecato da una ideologia alla quale avevo creduto. Bene. Voi direte: qual è l'ideologia? Ora dico io l'ideologia dell'objectivist movement. Avete mai sentito parlare? Forse, perché noi non siamo americani, tutti gli americani lo sanno. La storia nasce negli anni 50, quando una donna russa, Ayn Rand, che tutti gli americani conoscono, scappa dalla Unione Sovietica e va a riparo negli Stati Uniti e fonda negli Stati Uniti il movimento che si chiama Movimento Oggettivista, Objectivistic Movement. Ora, la tesi di questo movimento è ben condensata in due libri che la Rand pubblica, e che il secondo è stato tradotto anche in italiano 2 anni fa, e che in America è il libro più venduto in assoluto. Uno si chiama Atlas Rand, cioè Atlante che viene liberato dalle sue tesi. L'altro, The Virtue of Selfishness, pensate, un libro che ha per titolo La virtù dell'egoismo, The Virtue of Selfishness, pubblicato nel 1956. La Rand dice che la società buona, giusta, è quella basata sull'egoismo. Ognuno deve essere, e tutti, e se la prende ad esempio con la Chiesa, ne dice di cose, dice: la Chiesa, siccome predica la carità, la bontà, bisogna eliminarla, perché questo è contro il progresso è basato sull'egoismo, eccetera, eccetera. Queste sono le tesi del movimento oggettivista. Greenspan si innamora in senso intellettuale, di questa Rand, e diventa lui presidente del movimento oggettivista. Ebbene, nell'audizione del 23 ottobre 2008 lui dice questo, dice: io sono stato accecato da questa ideologia, e lo dice, ripeto, al congresso americano, che mi ha fatto credere che bla bla bla eccetera eccetera, che io dovessi, come presidente della Fed, della Banca Centrale, favorire il perseguimento degli interessi egoistici dei singoli banchieri, eccetera, eccetera. Ora ammetto di aver sbagliato, e quindi evidentemente è onestà intellettuale che non è da disprezzare, così via. Greenspan, se anche altri in altre parti del mondo facessero altrettanto, forse non sarebbe male, perché gli americani hanno tanti difetti, però hanno questa caratteristica, che quando fanno errori lo ammettono, non sempre poi ripagano, però almeno ammettere l'errore è di aiuto per dare orientamento ad altri, perché l'errore stesso non è ripetuto, così. Quindi vedete come certe ideologie camuffate, il fatto stesso di chiamare questo movimento oggettivista la dice lunga. Dico: ma sì, siamo stati. Dico: come si fa a essere così accecati dalle ideologie? Tu puoi dire che una società che viene fondata sul principio dell'egoismo è qualcosa di oggettivo? Almeno abbi il coraggio di dire: io sono un soggettivista individualista estremo, non metodologico ma sociologico, e credo a questo, almeno quello no, è oggettivo, quindi se una cosa è oggettiva tutti la devono perseguire, altrimenti sei irrazionale, quindi stupido, eccetera. Allora, queste tre separazioni, come vedete, sono veramente un fatto nuovo di questi ultimi decenni. Ed è questo il motivo per cui, dicevo, questa enciclica contiene la prima decisiva analisi critica e della crisi e dei paradossi di cui ho detto all'inizio. Perché non ci si, vedete, non è una enciclica questa di tipo moralistico.